Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, telefoni aperti da questo momento per una giornata davvero divertente. Oggi si è visto di tutto, carissimo Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Oggi si è visto davvero di tutto. Per gli intenditori di calcio si sono visti 27 gol in 5 partite questo pomeriggio, si sono viste le triplette di Higuaín e Paloschi, si è vista l'Inter rilanciata al quinto posto e tra l'altro il Milan potrebbe arrampicarsi fino a meno 3 dalla zona Europa League, questa sera battendo il Catania. Si è visto il Chievo quasi salvo, il Livorno quasi retrocesso. Ti frega qualcosa? No, è primavera, saldi di fine stagione, sì. Sono le classiche partite di fine stagione dove tutti si divertono, i cannonieri mettono a posto i tabellini, diverse squadre regalano, e quindi è divertente, un divertimento un po' finto secondo sì, me. Ma se, secondo me, carissimo Carlo, si sono, divertiti molto di più gli spettatori di Marassi, dove è andata in scena la puntata di Beautiful. È successo davvero di tutto, sai, il triangolo amoroso, Icardi, Maxi Lopez, Vandanara. Sì, delle storie che io adoro, continuo a pensare che Icardi sia un meraviglioso tronista. Sì, ma dopo ti faccio rispondere anche un amico che ha scritto su Twitter, Icardi viaggia alla media di un gol a partita, Carlo. Sì. Oggi però è andata così, prima della partita Icardi ha provato a stringere la mano a Maxi Lopez e Maxi Lopez non l'ha neanche degnato di uno sguardo e se n'è andato. Poi gli insulti, fischia ogni tocco di palla di Icardi, minuto numero 13, pensate cosa è successo. Poi D'Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1! Un romanzo, 5 minuti ed è toccata a Maxi Lopez, Carlo, calcio di rigore. La parata di Handanovic, sul destro di Maxi Lopez. Ed era concesso il rigore a Maxi Lopez, la parata di Handanovic. Poi botte, una simulazione di Eder, cartellino rosso, Samp in 10 per oltre un'ora. Poi nel secondo tempo Icardi ha fatto ancora gol, doppietta, 8 gol, 18 presenze, segna praticamente un gol ogni 120 minuti. L'Inter che ha vinto 4-0. Io non so chi è l'autore del copione di questa puntata di Beautiful, ma ci siamo divertiti tantissimo, Carlo. Sì. Qualcuno che scrive dei romanzi rosa, l'autore, anche perché non, nessuno mi dica che la Sampdoria ha giocato in maniera seria questa partita. La Sampdoria ha fatto un primo tempo, secondo me, meraviglioso, eh? Migliore in campo Handanovic. No, Giovanni, 0-4 non è una cosa seria, anche perché quest'Inter non ha la forza, probabilmente ha la forza di vincere a Genova, ma non ha la forza di passeggiare a Genova, quindi nessuno mi racconti che la Sampdoria ha giocato in maniera reale questa partita, ma non solo la Sampdoria, vale per molte altre squadre, l'ho detto, è la stagione delle beneficiate, quindi io credo che diverse squadre stiano giocando per divertirsi. Io credo che diverse squadre che hanno fatto un campionato meraviglioso stiano a questo punto, ma anche legittimamente, regalando qualcosa, perché l'Europa League non risponde ai loro desideri, perché così è. Sì, l'Atalanta ieri ha perso secondo KO consecutivo dopo la striscia di 6 vittorie. Il Parma ha rischiato di perdere, a pareggiare. Il Verona ha perso. E, insomma, io credo che queste squadre giocheranno soltanto alcune partite che interessano. Ad esempio, l'Atalanta-Verona potrebbe essere una partita vera per altre ragioni. Il Torino oggi ha vinto con peraltro 2 gol meravigliosi, ma credo che giocherà soltanto alcune partite. Sarei felice di essere smentito, ma io credo davvero sia così. C'è Atalanta, Torino, Verona, Parma, questa galassia della buona borghesia, io credo giocherà per grosso modo per divertimento. E quindi questa è una domenica positiva fin qui anche per il Milan, lo ripeto, dovesse vincere il Milan questa sera col Catania si arrampicherebbe a 3 punti dalla zona Europa League. Però che carattere, Icardi. L'hai visto anche con quell'esultanza dopo il gol dell'1-0 proprio sotto la gradinata, tra l'altro è stato ammonito giustamente perché non si può provocare il pubblico, però insomma che carattere. Sì, no, ma certamente a me non sta simpatico, questo è evidente per ragioni extracalcistiche, perché secondo me è ai confini del pagliaccesco, no? è abbastanza un buffone in tutta questa schiereria. Però 18 presenze, 8 gol, sai sì, come no, si no, dice, no? Uno può anche permettersele poi certe cose, poi ognuno ha il giudizio che vuole, ognuno ha il giudizio che vuole sulla vicenda di Cardi, però ho già dimostrato di avere attributi, di avere carattere, in tanti si sarebbero sciolti in una situazione come quella di oggi. No, Giovanni, secondo me in tutta questa vicenda, onestamente, questa vicenda che è molto pelosa, secondo me si sta comportando da coglione. Perché è così? Poi non giudico il calciatore, a me piace l'Icardi calciatore, è un ottimo calciatore, però rimane un tronista. In certi atteggiamenti non è giustificabile, in certe situazioni non è giustificabile. Tutta questa storia è un'enorme pagliacciata. Oggi li abbiamo visti uno di fronte all'altro. A me interessa quello che i giocatori fanno in campo, sempre. Però onestamente questa vicenda è troppo mediatica, è troppo mal gestita, è troppo stupida, è troppo piena di cose orrende. Non sei moderno, Carlo, è il nuovo modo, è la nuova frontiera dei social, della comunicazione. No, non sei moderno. Ti faccio sentire Palacio. Ma non capisco perché uno deve divulgare e perché non sei moderno, adesso è la moda, no, i selfie, gli after sex. Allora sono felice di non esserlo. Non sei moderno. Ti faccio sentire Palacio sulle prospettive dell'Inter. Abbiamo sofferto di più nel primo tempo, dopo aver fatto il gol la Sampdoria anche in 10 ha creato molta difficoltà e abbiamo stato un Samir stupendo e penso che fino a che finisce il primo tempo Samir ha parato tanti palloni. Calendario in discesa, l'Inter ha fatto fatica, 3 punti in 4 partite, dopo un mese torna a vincere, guarda caso quando il calendario ricomincia ad essere difficile, è un caso o no? No, non lo so, noi sappiamo che il campionato è molto difficile, se puoi vincere e perdi con ogni squadra e niente, dobbiamo continuare lavorando come fino adesso. L'Europa è più vicina? Sì, però manca, c'è tante squadre lì vicino e dobbiamo continuare così. Io non credo che sia un caso che l'Inter sia tornata a vincere fuori casa con una partita più impegnativa sulla carta delle ultime quattro. Più impegnativa cosa? Andanovic nel primo tempo ha tenuto in piedi l'Inter, tra l'altro riscattando anche qualche errore di troppo negli ultimi 2 mesi. Carlo però sta lì, 800-24-00-24, perché a proposito di domenica di parole, oggi è tornato a parlare dopo 3 mesi, prima di una partita Antonio Conte, ci risentiamo dopo il traffico. In Italia o si è juventini o si è contro, quindi noi siamo sempre soli contro tutti, quindi non è che... Tutti convocati. Ma quale grande giocatore Icardi, oggi si sarebbe meritato una valanga di monete dagli spalti, scrive Max al 349-238-6666, sono d'accordissimo, era Samp Inter e non la sfida per Vandanara, poi Sebastiano sottoscrivo parola per parola tutto quello che ha detto Genta su Icardi, Paolo, Icardi pagliaccio, Balotelli fenomeno, poi ancora Icardi si deve essere venduto l'anima al diavolo per vivere una giornata come questa, solidarietà Maxi Lopez. Perché non dite del gestaccio alla gradinata dopo il gol di Cardi? L'abbiamo detto, altro che beautiful. Beh, ha preso il cartellino giallo ed era meritatissimo, giusto Evaristo Beccalossi? Buongiorno, ciao, parliamo di calcio? No, stiamo parlando di beautiful. Dai, è stato un pomeriggio meraviglioso. È una giornata pesante, insomma, per la situazione appunto fuori dal calcio e niente, da parte nostra dai, è stata una bella vittoria pesante in un momento particolare anche per noi, quindi grande impresa e soprattutto un segnale forte per la lotta all'Europa League. Ma uno come Icardi che dopo una settimana periodo così va a Marassi, fa 2 gol, provoca il pubblico, che giocatore ha attributi o è un ragazzino? Io non ripeto la parola che ha detto Carlo, se vuoi la ripeti tu. Ho detto che in tutta questa... Ciao Evaristo, come stai? In tutta questa vicenda io do una valutazione, visto che loro vivono la loro vita mediaticamente, pubblicamente, allora io do una mia valutazione e dico che si stanno comportando da coglioni. E lo ripeto, lo penso davvero. Sì, però oggi Evaristo si è comportato da grande giocatore, arrogante, incosciente, non lo so. Però insomma, in tanti si sarebbero persi, questo è il mio pensiero in 90 minuti come oggi. ma credo che la situazione era difficile per tutti e due i soggetti chiamati in causa. Poi dopo io sono uno che riesce abbastanza a dividere le cose in campo, pensi a far bene, devi far gol, giocare bene. Poi fuori, secondo me, sono d'accordo che bisogna sapersi gestire in un certo modo, e le cose private devono rimanere private, ecco, anche se esatto. Icardi forse in quel senso lì deve sicuramente migliorare, però poi anche al pubblico, ok, noi tutti abbiamo trovato delle situazioni difficili, però bisogna cercare di non reagire, star zitti anche se ma tu non mi dire che non hai mai reagito in qualche modo, infatti, a provocazioni, anche dagli spalti. Sono stato perfetto, però bisogna capire che la gente, anche se ti dice dietro di tutto, io in questo momento, forse con l'esperienza, cercherei di essere superiore, e invece c'è qualcuno che magari reagisce anche, quindi per il bene, insomma, che ci sono anche delle tensioni particolari, bisognerebbe essere superiori e non reagire. Mi piace anche sapere cosa ne pensate da casa, eh? 800 24 00 24. Giovanni, dimmi Carlo. Vorrei chiedere, no, un altro punto, al di là di tutta questa vicenda pagliaccesca. Vorrei parlare di calcio e chiedere a Evaristo Beccalossi se secondo lui una partita di questo tipo a quest'ora della stagione è una cosa seria, cioè è davvero una partita difficile per l'Inter, perché io continuo a pensare che come detto sia la stagione delle beneficiate, cioè la Sampdoria insieme a quelle squadre che si sono conquistate un'ottima posizione di classifica, in questo momento inconsciamente giocano grosso modo per divertirsi. Becca, quindi io non direi che questa partita dell'Inter era tra quelle difficili. Becca, non lo so, io credo solo una cosa, che quando magari si va verso la fine stagione, ma ci sono dei punti in palio e si fanno determinate analisi. Adesso la San che è tranquilla e non va bene, ma credo che alla fine la Samp sicuramente ha raggiunto l'obiettivo della salvezza, e è diverso giocare contro una Samp coinvolta per non retrocedere, questo è un dato di fatto, però è anche vero che il problema era da parte nostra dell'Inter, che venivamo da un momento abbastanza difficile per cercare di raggiungere l'Europa League, e la squadra ha dato un segnale forte con un po' di fortuna perché il rigore è sbagliato, però alla fine vincere 4-0 lì dai un segnale forte, perché soprattutto all'esterno nell'ultima settimana sono arrivati parecchi attacchi, e questo risultato mette a tacere un po' tutti. Aspettate che vi faccio sentire uno dei protagonisti di giornata, Alberto Aquilani, doppietta Verona per la Fiorentina, microfoni di Sky, Aquilani. Allora c'è un problema di audio, adesso lo recuperiamo. Resta quella sofferenza, Becca, mezz'ora in 11 contro 10, l'Inter ha fatto fatica, ha anche rischiato al di là del rigore, e l'ho detto, migliore in campo Handanovic, assolutamente. Non so se da questo punto di vista il bicchiere di Mazzari, cioè quello della prestazione, è più pieno o più vuoto. Ma io so solo che se analizzi ci sono delle squadre che sulla carta possono essere più forti di noi e sono dietro in classifica, quindi quinto posto in classifica con tutti i problemi, anno di transizione, cambio societario, per me Mazzari sta facendo bene per la squadra che sta allenando. Poi se mi chiedi un discorso per il futuro mi fermo, perché devi capire se Toino e Mazzari vanno nella stessa direzione, perché bisogna valorizzare anche dei giovani. Però oggi intanto ha giocato Kovacic, non capitava, esatto, da due mesi e mezzo. È importante che bisogna puntare sui giovani, questo è un dato di fatto. Carlo, che voto dai all'Inter, detto che per te questa è stata una partita sin troppo morbida? Oggi? Sì. Ma non lo so, decidi tu, 7-8 va benissimo, cioè ha vinto 4-0 in trasferta e l'Inter ha fatto quello che doveva. Quello che dico io è che in questo momento ci sono delle squadre che non sono un test probante. Detto questo, io resto convinto del fatto che, pronto a essere smentito anche qui e a sbagliare l'ennesimo pronostico, però io credo che Milan e Inter andranno in Europa League, e resto convinto di questo perché le altre squadre in Europa League, al di là delle parole, delle dichiarazioni di intenti eccetera eccetera, non ci vogliono andare, e questo è anche legittimo, il fatto di non voler partecipare ad una competizione, soprattutto passando dai preliminari, per queste squadre sarebbe estremamente complicato dal punto di vista tecnico e economico, sarebbe un grande rischio. Dunque io credo che alla fine della stagione Milan e Inter andranno in Europa League. Il tuo pronostico è Inter quinto, Milan sesto, perché chi arriva davanti? La classifica in questo momento dice questo. State lì, intanto saluto Evaristo Beccalossi. Ciao Becca, grazie. Buon pomeriggio, un abbraccio. Egno da Genova, appena uscito da Marassi, mi segnalano 800 24 00 24. Egno, prego. Ciao, buongiorno, grazie per la telefonata. Io sono uscito 3 minuti fa dallo stadio con sangue abbastanza marcio, visto che sono blu cerchiato. La cosa da dire è che commentare un 4-0 avendo giocato in 10 contro 11 per tre quarti di partita col migliore in campo dell'Inter, il portiere, è una cosa veramente allucinante. Comunque diciamo che ho telefonato soprattutto per il commento su Icardi. La cosa che mi ha fatto da antisportivo, la cosa che mi ha fatto più male è che Icardi ha subito 2 falletti in tutta la partita, dopo che ha preso per i fondelli la squadra, la società che ti ha lanciato, i tifosi che ti hanno tenuto bene per un anno, che devi dire grazie alla Sampdoria. Sei ancora, forse mi sembra che sia ancora in parte della Sampdoria, non gli abbiamo fatto niente, una carezza, lì devo dire che magari intimidirlo un pochettino di più, visto che ha preso per i fondelli tutti quanti. A me sembra, Ennio, però che la prima mezz'ora, insomma, il clima intorno ai Cardi non fosse dei più semplici da gestire, però insomma faceva parte di quello che poteva succedere ed è successo. Grazie Ennio. Carlo, a proposito invece dell'altro che oggi a parole ha sfidato tutto il mondo. Qualche calcetto un po' più leggero, però l'ho visto. Se lui va lì a fare il bulle a sfidare, ma tutto assolutamente ampiamente prevedibile, eh? Certo, ma se lui vuole fare il bulle, andare lì a sfidare la la società che l'ha lanciato, la curva, Lopez e todo il mondo, va bene, allora questo è normale, no? Quindi ha ragione Ennio, perché sbeffeggiare la squadra che ti ha lanciato? Quale rivalsa ha Icardi nei confronti a Sampdoria? Cioè, quali problemi ha Icardi nei confronti a Sampdoria? E detto questo, fammi aggiungere un'altra cosa. Bravissimi Cerci e Immobile, il tuo preferito, però ragazzi, a prendere le ammonizioni per quella stupidaggine di levarsi la maglietta è veramente da idioti. Sì, Cerci ha preso un'ammonizione che lo priverà della partita con la Lazio domenica prossima. Esatto, tra l'altro, in mezzo al campo, Ventura, c'è stato anche il rimprovero di Ventura in diretta a fine partita a Cerci, che ancora stava esultando in maniera pittoresca. Ventura gli ha spiegato che quei cartellini gialli non si prendono. Prima di chiudere, Carlo, dimmi la tua invece su Conte. Oggi tornava a parlare e non c'è andato piano. Siamo soli contro tutti, siamo gli unici soli contro tutti, la Roma può capitare sporadicamente che abbia questo problema, noi sappiamo benissimo che in Italia sono tutti o quasi anti-juventini. Tutti chi? Questo non lo capisco, solita dichiarazione di Conte, ovviamente per caricare la squadra, per così caricare l'ambiente, mi sembra una dichiarazione pleonastica, soli contro tutti chi? Cioè, non contro cosa? Mi sembra il modo di marcare il fortino. In vista di una partita domani sera che secondo me è decisiva, Juve strafavorita per il campionato, ma se c'è un posto dove può perdere qualche punto è domani sera. Allora si riaprirebbe un po' tutto. Grazie Carlo. Grazie a te Giovanni, un saluto a tutti. Ciao Carlo, c'è Mazzari, microfono di Sky. La Sampdoria meritava di più il primo tempo, anche se ci lasciava tanti spazi dietro, potevamo fare gol anche in ripartenza, solo venivano tanti davanti, andavano più forte di noi, ci pressavano e non mi è piaciuto il primo tempo, per come intendo io il calcio, e basta questo. Il secondo tempo, vabbè, ci siamo rimessi a posto e si è fatto il secondo tempo da grande squadra, anche se loro erano 10, ma insomma si è capito cosa bisogna fare, insomma, da un punto di vista del gioco parlo. Poi, come abbiamo visto anche oggi, se fai gol al momento giusto invece di sbagliarlo, magari il risultato può essere diverso anche dalla prestazione che fai. Ma questa Andrea, è una squadra... Paventi. Sì, no, volevo chiedere se questa è una squadra che ha bisogno poi tra primo e secondo tempo di essere un po' strigliata, perché spesso nella ripresa poi si vede la migliore Inter rispetto al primo tempo. Ha bisogno sempre un po' di una scossa che riesce a dargli l'allenatore? Può darsi, non lo so, ma bisogna avere continuità di rendimento, bisogna acquisire una continuità di mentalità di un certo tipo, di non abbassare mai la guardia. L'ho già detto, un rammarico che a Livorno sembrava una partita in discesa, di non essermi arrabbiato come oggi. Quello può essere, magari avevamo due punti in più, però insomma, vabbè, comunque andiamo avanti, lavoriamo sulla prestazione come abbiamo sempre fatto. Se vogliamo continuare a vincere bisogna giocare in un altro modo, almeno il primo tempo, l'approccio della gara deve essere diverso. Sì, non sembra contentissimo, Mazzarri, malgrado il 4-0 a Marassi, effettivamente è vero, anche in 11 contro 10 Inter che ha sofferto tantissimo nel primo tempo e si è aggrappata alle parate di Handanovic, questo al di là della vicenda di Icardi, Maxi Lopez e tutto quello che vi abbiamo raccontato e che domani sarà poi sulle prime pagine dei giornali, perché non siamo solo noi a fare i guardori di questa incredibile storia. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Vi faccio sentire le ultime battute di Mazzarri su Sky. Mazzarri, per la mia squadra non mi interessa, cioè, no, quello che si dice intorno no. Quando ormai c'hai le spalle larghe, sei abituato a fregartene e concentrarti soprattutto su allenare bene la squadra, e la società vede cosa fai tutti i giorni, è lì che poi interessa un allenatore, è da loro che mi interessa essere valutato oltre che da giocatori. Sì, Mazzarri che sta parlando del suo futuro, perché ancora in settimana, ancora oggi, credo proprio sul Corriere dello Sport, di cui saluto il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Credo ancora oggi si scrivesse Mazzarri così come Seedorf, legati all'Europa, senza una qualificazione in Europa League saltano, o ho letto male? Sì, è così, ma non è che lo scriviamo noi, lo dite anche voi, lo dicono tutti, perché nell'ambiente si sa che se non arrivano quei risultati, del resto le visite di Tohir non sono fatte per i giornalisti, sono fatte per chiedere alcune cose che vanno o non vanno nella società, e quindi se non arrivano risultati, non arriva un qualcosa, diciamo, di possibile, anche Mazzarri torna in discussione. Quindi a me fanno sempre un po' ridere queste parti in commedia da una parte e dall'altra, anche da parte dei nostri noi colleghi, anche a volte siamo pronti a smentire la pseudoconcorrenza. È così, è nelle cose. Un allenatore che non porti risultati può essere messo in discussione. Detto questo, mi sembra che oggi abbia messo un tassello, insomma. Bravo, esatto. Alla sua panchina, se era pericolante in prospettiva futura, oggi ha messo un rinforzo. Per me Mazzarri rimane uno dei migliori allenatori per quanto riguarda un piano di ricostruzione di una squadra. Non ce n'è così, secondo me, neanche in Europa. Cioè, è uno capace realmente, in qualsiasi ambiente, di mettere le cose a posto. Poi dal mettere le cose a posto a ottenere dei risultati è un balzo che ancora manca nel curriculum di Mazzarri. Però per quanto riguarda la predisposizione di una squadra, la coerenza di un gioco e anche l'impronta di un allenatore come lui, per quanto riguarda la grinta, lui è un mago in questo, assolutamente. Direttore, noi però ti abbiamo convocato perché non possiamo non considerare, non possiamo dimenticare che abbiamo dormito questa notte e dormiremo anche la prossima con la Roma a meno 5 virtualmente dalla Juventus, e noi qui siamo grandi tifosi che il campionato resti aperto il più possibile. Adesso come la settimana scorsa, la pressione è sugli altri, la differenza è che avremo meno 5 almeno un giorno di più che la settimana scorsa, e speriamo di avere questo scarto ancora quando andremo alla Fiorentina sabato prossimo. Il discorso dell'anno prossimo non lo affronto adesso, il fatto che potremmo trovarci senza titoli lo prendo in considerazione già da un po', perché sembrava quasi proprio finita il discorso scudetto. Adesso sembra che ci sia qualche flebile speranza, ma il fatto che possiamo non vincere il campionato l'abbiamo metabolizzato. Questo è troppo, eh? Vabbè, non mi spoglio, ma non parliamone più, perché i tifosi sono scaramantici e secondo me se stanno già tante squadre che... Oh, direttore De Paola, noi ci scherziamo, però mi sembra che la Roma lotti, non abbia nessuna intenzione di mollare. Questo è un bene per tutti, perché questo altrimenti sarebbe un campionato già sepolto da tempo. Ma quanto ci crede Garcia secondo te davvero? Quanto c'è gioco delle parti? Quanto c'è voglia di tenere alta la tensione della squadra? Ma secondo me Garcia ci tiene fino al punto da poter tenere sempre desta l'attenzione della sua squadra fino all'ultima giornata, e fa benissimo. Non si è mai voltato indietro, si è sempre premurato di guardare avanti, e avanti c'è la Juventus. Adesso se la trova addirittura a 5 punti, sia pur magari soltanto fino a domani. Però questo è un grandissimo obiettivo per una Roma che si è rilanciata in una stagione mostrando un gioco stupendo e anche, diciamo, un convincimento interno alla squadra che prima non c'era assolutamente. Quindi sarà anche un gioco delle parti, ma è un aspetto motivazionale sia per la squadra sia per l'ambiente stesso, che non va trascurato. Hai sentito oggi Conte, ti sembra stia in qualche modo soffrendo un po' di pressione? Sì, ma lui fa benissimo anche il suo mestiere di comunicatore. Il far sentire la Juventus amica o nemica, sola o accompagnata contro tutti, adesso praticamente non gli sembrava vero di poter in qualche modo controbattere parole di Garcia, riponendo sempre la Juventus al centro delle attenzioni, dicendo una frase che secondo me non è vera, cioè non è così diciamo tranchant, cioè o si è juventini o si è anti-juventini. Non è questa la realtà. Sicuramente una squadra che interpreta il potere da un punto di vista di successi è un motivo di riferimento, per cui chi vuole arrivare allo scudetto deve passare dalla Juventus. Questo non può che rendere orgoglioso chiaramente la Juventus e la squadra di Conte, ma nello stesso tempo l'ambizione di tutte le altre squadre che partecipano a un torneo e a un gioco è quello di battere la Juventus per vincere lo scudetto. Che era anche l'ambizione del Napoli. Se hai un minuto ti faccio sentire Benitez, che sta parlando ai microfoni di Sky. Che dopo la partita del Parma, che non abbiamo fatto così bene, credo che dà un segnale ai compagni che tutti possono giocare e nessuno si può fermare, perché abbiamo tante partite importanti ancora e la finale della Coppa. Resta questo era Benitez, che parlava anche di Higuain, autore oggi di una tripletta. Higuain che viene anche criticato, ricordo che è arrivato, se non ricordo male, al 17esimo gol in campionato e 24esimo gol complessivo nella stagione. Mi sembrano numeri importanti, che fosse un gran giocatore lo si sapeva, ma era pur sempre al debutto, alla prima esperienza con il calcio italiano. Mi sembrano comunque numeri importanti quelli di Higuain, direttore. Ma io devo dire che ho grande ammirazione per Higuain, mi sbilancio e dico che a me piace anche più di Cavani, lo dico perché al di là dei numeri personali e sicuramente dell'atletismo di cui Cavani è un grandissimo interprete, io credo che Higuain sia anche più al servizio della squadra, cioè non è soltanto il finalizzatore ma è anche assist man, poi uno che ha segnato 17 gol, grandissima umiltà, rabbia quando viene sostituito, ma non contro l'allenatore o qualcuno, ma solo per la propria prova, perché magari non è stata all'altezza. Ecco, questo è Higuain, secondo me, ecco, per un primo anno che è arrivato, credo che i riferimenti debbano essere questi anche per lo stesso De Laurentiis. Che cosa si costruirà attorno a Higuain, senza cadere nell'errore poi di creare un altro caso Cavani, cioè un altro giocatore che poi rimanga un pochettino isolato, poi possa essere spendibile per il mercato. Higuain fa parte di un progetto futuro, deve far parte di un progetto futuro per il Napoli. Attorno a Higuain c'è già un'ottima squadra, può essere una squadra eccellente che può porsi anche proprio nel gota del calcio internazionale se verranno inseriti ancora due o tre giocatori. Mi sembra che Benitez a riguardo abbia lanciato dei messaggi abbastanza precisi anche ieri sulla necessità di una rosa più profonda, più lunga, sulla necessità che il Napoli faccia investimenti anche senza indebitarsi. Per chiudere, direttore, mi pare che oggi se la sia un po' presa Conte anche alla domanda sull'impegno dell'Udinese domani sera. C'è qualcuno che insomma tra le righe ha detto: speriamo che domani sera sia una partita vera, quella tra Udinese e Juventus. Sì, lui se l'è presa anche sulla questione degli arbitri, insomma, ma diciamo che è un gioco delle parti. Ci può stare qualche domanda forse eccessiva, qualche domanda ci sta in quello che appunto è un'attenzione mediatica che c'è attorno alla capolista. Mi sembrano cose abbastanza inevitabili, anche se magari non si deve mai esagerare e andare oltre il confine del buon gusto. Grazie, direttore. Grazie a voi. Grazie Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. C'è Benitez che sta ancora parlando i microfoni di Sky. C'è Luca da Udine che ha chiamato l'800 24 00 24. Luca, buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio anche a lei, è un piacere parlare con voi. Due cose velocissime. Dica. Una, ho visto la partita oggi dell'Inter e la Sampdoria mi è sembrata tutto fuori che arrendevole, perché fino all'1-2 del secondo tempo invece ha fatto una super partita, devo dire la verità. Ha giocato molto meglio dell'Inter. Sì, mi sembra che anche Mazzari sia d'accordo, per essere un tecnico che ha vinto 4-0 in trasferta, oggi non aveva la faccia soddisfatta, proprio per quella prestazione lì, nel primo tempo, tra l'altro in 11 contro 10. Prego Luca. E l'ultima cosa veloce, riguardo Icardi, anche a me non piace quello che fa naturalmente con Twitter e tutte le cose, si figurano neanche Facebook. Ma una cosa, anche non le pare strano quello che è successo alla Sampdoria con rigore calciato da Maxi Lopez, che è un attaccante di 30 anni, che magari aveva lui qualche sensazionato il sin più di Icardi, e anche Dersi vede dopo è stato molto molto nervoso, si è fatto buttare fuori perché lui deve essere il rigorista ufficiale, quindi anche i tramacci nelle altre cose ci sono stati un po' di cose strane, insomma. Sì, ma a me della soppopera, come dice lei, sì, beautiful, è stato un pomeriggio meraviglioso da questo punto di vista. Però mi sembrava normale che i compagni lasciassero calciare il calcio di rigore a Maxi Lopez, proprio per il significato che poteva avere per lui fare quel gol, raggiungere il pareggio in quel momento. Lo ripeto, è stato certamente un pomeriggio difficile per Icardi e secondo me dal punto di vista calcistico ne è uscito benissimo, una doppietta, una dimostrazione di grandissimo carattere. Era però, e non va dimenticato, un pomeriggio molto complicato dal punto di vista emozionale anche per Maxi Lopez. Poi sulla loro vicenda personale ognuno si faccia il pensiero che vuole. 800 24 00 24 traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24. Diamo un'occhiata alla classifica che non l'abbiamo in realtà ancora letta. C'è la Juventus 84 punti ma una partita in meno, poi Roma 79, Napoli 67, Fiorentina 58, Inter 53, Parma 51. In questo momento qui si ferma la zona delle squadre qualificate in Europa League. Poi Torino e Lazio 48, Atalanta, Verona 46, Milan 45, e lo ripeto, il Milan battendo questa sera il Catania potrebbe salire a quota 48 e quindi a 3 punti, a solo 3 punti dal sesto posto, che vale il preliminare di Europa League. In fondo invece c'è il Catania con 20 punti, la sua avventura in questa Serie A sembra già chiusa. Ci sono Livorno e Sassuolo risalendo la classifica, quota 25, c'è il Bologna quota 28, c'è il Chievo che oggi forse sbancando Livorno si è salvato, 30 punti in questo momento, 5 punti in più della terzultima, quindi 5 punti in più della quota salvezza. Franco da Pescara, Franco. Sì, buonasera. Buonasera, prego. Io volevo fare una domanda. Non Dica. Capisco se sono juventino. Non capisco perché tutti, diciamo anche tra amici tifosi dell'Inter, del Milan, della Fiorentina, ci deridono perché dicono l'Europa League è una coppetta del nonno, non vale nulla, non ha nessun tipo di prestigio. Perché adesso tutti quanti si affannano ad arrivare in Europa League? Quello non capisco. Perché da soldi, da visibilità europea, però però vincerla non conta nulla. Però Franco, mi perdoni, non lo deve dire a me. Secondo me però c'è anche un errore di fondo che ha fatto la Juventus, almeno a livello comunicativo. La Juventus da qualche settimana è tornata ad indicare l'Europa League come un obiettivo prioritario della stagione. La Juventus post eliminazione dalla Champions League era una Juventus che a lungo ha per prima snobbato, ha parlato dei 100 punti, e secondo me è stato un errore. Ripeto, io l'ho già detto, la Juventus non alza un trofeo internazionale da 18 anni, mi sembra che sia la Juve per prima, Conte per primo, ad avere necessità di arrivare alla finale di Torino e cercare di vincere quella coppa. Grazie comunque Franco. Intanto sta arrivando Monica Colombo che è di passaggio per andare verso San Siro, collega del Corriere della Sera. Adesso apriremo anche il discorso relativo al Milan. Prima però il nostro borsino mondiale. Oggi di quelli che sono abbastanza certi di avere una maglia per il mondiale ha segnato Gilardino, ha segnato Cerci. A proposito di Cerci, ve lo faccio sentire a fine partita. È un messaggio importante, no? Anche per il Brasile, insomma. Beh, sicuramente il mondiale passa attraverso le prestazioni del Torino. Ogni giocatore credo che debba far bene al proprio club per ambire ad andare ai mondiali. Io cerco continuità con questa squadra di giocatori eccezionali, perché mi danno anche molto i miei compagni. Quindi sogno di andare in Brasile, ma sono consapevole delle mie qualità. Ha segnato anche Ciro Immobile, gol numero 19, in questo momento è capocannoniere, ha staccato Tevez che fermo a quota 18, ha segnato, in realtà ne aveva fatti due, ha segnato anche Luca Toni, Luca Toni. Fischia l'arbitro, parte Toni con il destro, rete del 2-3, riapre la partita il Verona in inferiorità numerica con il gol numero 17 di Luca Toni. Toni, che io non ho capito perché non andrà nemmeno a fare i test domani e dopodomani con la nazionale. Sicuro di una maglia anche Balotelli, vero Monica Colombo? Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, credo proprio che Mario sia tra i pochi sicuri, diciamo, di andare in Brasile quest'estate. Oggi alla ricerca del gol per superare il suo record personale di 13, in un buon momento, ed abbiamo visto che anche con Seedorf si è avviato un processo di normalizzazione, meno cartellini, meno intemperanze in campo, meno intemperanze con gli arbitri. Sì, ha un grande sponsor Balotelli in questo finale di stagione, lo sponsor è proprio Clarence Seedorf, sentitelo ieri. Lui sta mostrando una continua crescita, qualche volta è sul campo, qualche volta è fuori dal campo, qualche volta nella sua vita privata, qualche volta diciamo è il suo comportamento verso gli arbitri che mi sembra esemplare in questo momento, quindi è lui che fa questo lavoro, noi siamo qui solamente per aiutare. Io continuo a pensare, Monica, che però debba correre Balotelli, perché gli altri, abbiamo visto oggi Immobile, stiamo vedendo quello che fa destro, andrà ai mondiali Balotelli, però secondo me sarebbe meglio che ci andasse convincendo tutti, e non solo perché Prandelli ha costruito e cucito intorno a lui la nazionale che farà i prossimi mondiali. Sì, diciamo che il posto ce l'ha assicurato, meno diciamo la maglia da titolare, è lui che deve ancora dimostrare di poter assumersi la responsabilità di caricarsi sulle spalle la nazionale italiana. Da parte sua c'è grande voglia, in ogni sua dichiarazione viene sempre manifestato diciamo l'amore per l'Italia, l'amore per la nazionale italiana, vediamo se davvero con questa grande manifestazione riuscirà a fare quel salto di qualità e dimostrare di essere davvero quel campione che tutti ci auspichiamo. Se servivano motivazioni, abbiamo letto prima la classifica, vincendo il Milan questa sera va a 3 punti dalla zona Europa League, diciamo che i risultati del pomeriggio ne hanno date ulteriori. Volevo chiederti con chi ce l'aveva Seedorf ieri pomeriggio, quando è tornato di nuovo a parlare del gap fisico di quest'anno, di cosa potrà essere l'anno prossimo. Ti faccio sentire un estratto. Credo che io sono appena iniziato come allenatore e devo certamente fare molto più strada ancora per poter dire questo è il mio modo di giocare al calcio con la mia squadra o quello che è il mio ideale. Ho preso una situazione e sto cercando di tirar fuori il massimo di un giocatore, il massimo di questa situazione. Credo che la stagione prossima sarà tutto impostato in una maniera diversa, perché posso cominciare sin dall'inizio e quindi sarà un altro modo di parlare. Si è tolto qualche sassolino anche ieri, c'è qualcosa che continua a non digerire, anche se in tanti giustamente hanno scritto che è un Seedorf normalizzato rispetto a quello che è arrivato a Milanello. Sì, diciamo che non perde occasione per rimarcare il fatto di non aver trovato la squadra in grandi condizioni fisiche e ovviamente di questo deficit diciamo di condizione la colpa si attribuisce, si addebita alla precedente gestione tecnica, cioè a Massimiliano Allegri. Anche ieri credo che in un passaggio ha detto di non aver trovato Rubinho in grandi condizioni fisiche, in effetti ha quello che da quello che anche a me risulta, Rubinho è uno di quei giocatori che è andato da Seedorf non appena arrivato per lamentarsi di non sentire sufficiente forza nelle gambe, che sia vero o non sia vero non si sa, di certo diciamo che il tecnico olandese non fa molto mistero, ecco, sì, delle condizioni in cui ha trovato la squadra. Che la preparazione però quest'estate era stata concordata con la società, c'era la necessità di battere il PSV, di andare ai gironi, di prendere il gettone da 30 milioni di euro, cioè non credo che Allegri si sia inventato tutto da solo, se se poi parte di quella preparazione è stata sbagliata. Sì, non è credo questione di preparazione sbagliata, è vero che la preparazione era stata impostata proprio per superare il preliminare di Champions con il PSV e quindi per entrare subito in forma per la fine di agosto. Dopodiché quando Seedorf è arrivato nel mese di gennaio ha spesso tirato in ballo il discorso della preparazione. È anche vero che in questo momento la squadra finisce in crescendo, sta dimostrando di correre, di essere in una buona condizione, è cambiato il preparatore rispetto a prima, diciamo che non abbiamo la controprova perché ad esempio l'anno scorso il Milan aveva ottenuto il terzo posto proprio nell'ultima giornata di campionato, sì, a Siena, dimostrando ecco, di essere in continua crescita della preparazione, della condizione fisica. Abbiamo meno di un minuto, poi ci dobbiamo fermare per il GR. Normalizzato anche Seedorf, cioè mi sembra che abbia cambiato radicalmente anche il suo approccio a tutto l'ambiente dopo la filosofia, le prime settimane, i sorrisi, i silenzi con Gagliani. Sì, sì, assolutamente, c'è stato un cambio radicale, perché se nelle prime settimane si parlava soltanto di filosofia, di progetto e si considerava questo campionato come un'enorme anticamera per l'anno prossimo, poi Seedorf secondo me ha capito che invece i risultati di questo finale di stagione erano determinanti per essere confermati anche il prossimo anno. E se a inizio stagione o all'inizio della sua avventura milanista aveva privilegiato un contatto diretto con Silvio Berlusconi, bypassando in parte Adriano Galliani, ora ha capito che era necessario passare per quella strada. Anche perché senza Europa League, lo scrive oggi il Corriere dello Sport, abbiamo sentito prima il direttore, attenzione perché anche Seedorf potrebbe essere rimesso in discussione. Ci dobbiamo fermare, Monica Colombo resta con noi, GR, poi torniamo. Ragazzi, sto arrivando, fra poco, 800240024, continuiamo, tutti convocati, weekend, fra poco. Tutti convocati. 800240024, provando a ragionare su una domenica che ha dato delle risposte, l'abbiamo detto, fra una tripletta e l'altra, quelle di Higuain e Paloschi. Ha detto ad esempio che l'Inter torna ad arrampicarsi sul quinto posto, esce dalla crisi, ha detto che questa sera vincendo il Milan potrebbe a sua volta arrampicarsi a 3 punti dalla zona Europa League, risultato credo difficile da pronosticare soltanto un mese fa. Intanto ti saluto Pier, ciao! Come va? Benissimo, tra l'altro ci siamo divertiti questo pomeriggio, beautiful, Icardi, Maxi Lopez, Vandanara, io non so se hai avuto la possibilità di seguirla. Sì, sì, mi sembra un remake della vicenda fra il signor Terry e il signor Bridge, con Vanessa Peronzel, che era la moglie di Bridge, che ebbe questa scappatella con Terry, che poi causò l'allontanamento di Terry, cioè o meglio la perdita della fascia di capitano da parte di Terry, le conseguenti dimissioni, anche se il Capello non ti dirà mai che è così, ma insomma sicuramente su quella vicenda lì il Capello non era in grande accordo con la federazione, grande pacchettonismo inglese, e poi ci fu il primo incrocio con la stretta di mano negata, e mi sembra che insomma siamo esattamente nella stessa fattispecie. Sì, poi dopo ci sono stati i gol, rigore sì, sbagliato, certo, dai, chiaro. C'è stato davvero tutto in questo pomeriggio, ci stiamo anche buttando avanti con l'occhio, parlando di Milan con Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao poi... Monica, come stai? Io bene, tu? Va bene, io felice, tu bella persona, scusate, ma è una cosa che... una gag. La facciamo sia in pubblico che in privato, e quindi è chiaro che... La fai tutte le volte, ma io non ho mai sostenuto di essere originale. No, Galliani ha normalizzato Seedorf, noi prima o poi normalizzeremo Pierluigi Pardo. No, sto scherzando. Mai, assolutamente. Non so se hai sentito oggi Conte, se no te lo faccio sentire. Dai, Conte sulla Juve, soli contro tutti, sentilo. In Italia o si è juventini o si è contro, quindi noi siamo sempre soli contro tutti, quindi non è che magari per loro è un fatto sporadico pensarlo, ecco, per noi è un fatto sistematico, però è stato sempre così, sarà ancora così, finché la Juventus vince sarà sempre sola contro tutti, ecco. Però c'è stato ultimamente, prima era diventato un po' più simpatico, ecco, ultimamente abbiamo di nuovo ripreso le giuste posizioni, che siamo orgogliosi di questo. Mi interessa sapere cosa ne pensano anche gli amici a casa, sulla Juventus sola contro tutti, antipatica, simpatica, 800-24-0024, Conte che ha parlato anche degli arbitri, poi ve lo facciamo sentire. Pieno clima di accerchiamento. Ma no, ma classico meccanismo psicologico di Conte, c'è anche del vero, cioè non... Conte ha ragione, fa parte del kit del perfetto juventino. Cioè, sì, secondo me sente anche un po' di pressione, però, Pier. Non è un caso, da 3 mesi non parlava, è tornato a parlare, l'ha fatto perché doveva lanciare dei messaggi e questa mattina l'abbiamo capito. Secondo me, comunque, c'è un finale di stagione che deve gestire e che forse non è così scontato. Guarda, come leggendo la classifica sembra. Sta facendo cose eccezionali. Secondo me la partita di ieri, non so se poi ci torneremo, è stata una partita, una delle più belle della stagione, considerate le tante assenze, considerata anche la pressione che ci poteva essere su questa squadra. Insomma, ieri giocava veramente senza 6 titolari e ha fatto una partita eccezionale per intensità e per qualità. Detto questo, io non credo che il campionato sia in bilico, non credo che Conte senta tanta pressione, penso che sicuramente, insomma, lui queste cose le pensi e secondo me ha anche ragione, nel senso che comunque alla fine è ovvio che in questo momento c'è tre quarti d'Italia che tifano Roma per un'eventuale sfida a scudetto. Sono a parte gli juventini laziali, io penso che tiferanno Roma tutti. Monica, sente un po' di pressione Conte? Ma secondo me sì, secondo me un lui pochino sa sì, che la Juve questo scudetto l'ha vinto, perché in linea di massima l'ha vinto, però la Roma 7 vittorie consecutive che non molla, qualche guaio fisico, qualche difficoltà della Juve, non lo so, io un po' sotto pressione lo sento. Ma basta secondo me rivedere le immagini del gol con cui la Juve ha sbloccato la partita con il Livorno, credo, lunedì scorso, quando Agnelli abbracciato in maniera smodata Marotta e Nedved, per capire che tutto sommato un po' di paura per i romani che arrivano da dietro ce l'hanno, insomma. Sì, a proposito di esultanze provinciali, qualcuno ha anche fatto notare che esultare così per un gol al Livorno. Domani c'è l'Udinese, abbiamo sentito prima il direttore De Paola, direttore del Corriere dello Sport, perché oggi Conte, Pier, se l'è presa anche con quelli che lasciano intendere che domani per la Juve sarà una partita morbida. Morbida nel senso di fine stagione, morbida nel senso di giocata contro un club amico che ha 1000 intrecci, 1000 interessi con la Juventus. Ha detto Conte, ve lo faccio sentire, contro di noi giocano tutti la partita della vita. Ieri alcuni giocatori della Roma hanno chiesto all'Udinese hanno chiesto se l'Udinese aveva recepito il messaggio lanciato proprio ieri sera, quasi a chiedere proprio alla squadra di Guidolin magari di fare la partita della vita per cercare di fermarvi. Che cosa risponde? Grazie. Ma che non c'era bisogno, anche perché chi affronta la Juventus fa sempre la partita della vita, quindi sia che si tratta l'ultima, la penultima, la terzultima, la seconda in classifica, contro la Juventus giocano tutte le partite della vita, quindi normale amministrazione per noi. Pier? Ma io penso che l'Udinese farà la partita che vuole fare, nel senso che adesso non è che c'è l'obbligo di fare la partita della vita. Brutto è quando vedi squadre che si scansano, e non penso che l'Udinese si scanserà, tanto per essere chiari. Gioca in casa, è in una situazione di classifica comunque abbastanza tranquilla, credo che farà la sua partita, insomma. Semmai si può discutere sul turnover del Livorno una settimana fa, che insomma, visti anche i risultati di oggi, non mi è sembrata una mossa geniale, ma quello per un discorso generale di vivere il presente, di vivere la singola partita, quelli che aspettano il futuro, sempre aspettando il futuro. Sarebbe bello che tutti se le giocassero tutte le domeniche, senza star troppo a fare delle filosofie. Non per un discorso della qualità del campionato, anche per un discorso vero, nel senso che manca la controprova, ma magari con Paulinho il Livorno avrebbe fatto una partita diversa contro la Juve. Poi secondo me Juve-Livorno è una partita che se giochi 100 volte la vince 99 volte la Juve, quindi stiamo parlando chiaramente di una differenza tecnica enorme, però in quella circostanza lì è stata fatta una scelta di tipo tattico che alla fine, alla luce di quello che è successo oggi contro il Chievo, non mi pare che abbia pagato. No, io penso che l'Udinese farà una buona partita, farà la sua partita e non c'è neanche, non è che devi chiedere chissà che cosa, nel senso che ognuno ha le motivazioni che ha, che deve avere. Un conto è scansarsi, un conto è tutto ciò che appartiene alla sfera, diciamo. Sì, sono le motivazioni che arrivate a questo punto della stagione fanno la differenza. Lo stiamo vedendo anche in altre parti della classifica. Abbiamo detto Atalanta-Parma che hanno un po' mollato, ma lo stesso Verona e la Lazio non hanno più il passo che avevano un paio di mesi fa. Tutti convocati. Io continuo a pensare che se esiste una giornata in cui la Roma può sperare di riaprire il campionato è questa, perché o la Juventus in qualche modo lascia qualche punto a Udine e allora magari si può ritrovarci qui fra una settimana a ragionare di un ipotetico aggancio della Roma, oppure davvero è finita. E io credo che anche Conte da un certo punto di vista capisca che questa è una domenica o un lunedì nel caso della Juventus che rappresenta un po' uno snodo per questa volata scudetto. Saluto Paolo Liguori. Ciao Liguori, buon pomeriggio. Ciao, buonasera. È così? Ciao. Cioè è per questo forse che è un po' sotto pressione Conte? Come la vivete voi da Roma? Ma guarda, proprio io la vedo diversamente fin dall'inizio. Questa fissazione della volata scudetto è naturalmente fa parte del gioco, è naturalmente la competizione dei giornali. La Roma il suo campionato lo sta facendo al massimo. Ieri ha giocato una partita che direi quasi esemplare, non per il risultato e per il gioco, tutti l'hanno lodato e l'hanno visto, ma per chi vive nell'ambiente di Roma penso che sia fondamentale quello che si è visto stasera, cioè i cinque sostituti che erano tutti attesi ad un esame hanno giocato tutti molto bene, da Taddei a Ljajic a Dodò, come se fossero loro i titolari. Questo significa che la Roma sta facendo un campionato con risultati eccezionali, record di vittorie e di punti. C'ha cinque partite, le vuole vincere, una è con la Juventus e il suo campionato finisce così. Sì, io però Pier, Monica, io però ritengo che se una squadra come la Roma in questo punto della stagione fa una striscia di 7 vittorie consecutive, Monica, è perché in fondo quelle parole, anche quelle di Garcia ieri sulla possibilità di tenerla aperta fino in fondo, non sono poi parole così vuote, è perché ci crede Monica. Certo, e soprattutto perché proprio in domeniche, in turni diciamo come questi, secondo me c'è la volontà di approfittare anche delle energie fisiche e psicologiche spese dalla Juve in Europa League. Cioè ricordiamoci che comunque giovedì è stata impegnata in una gara complessa, per cui credo che se c'è un turno in cui in effetti la Roma può approfittarne per cercare di rosicchiare dei punti può essere proprio questo turno di campionato. Poi che davvero riuscirà a fare il miracolo e superare la Juventus, quello è un altro paio di maniche. Questo è difficile. Pier, tu non hai l'idea anche un po' che forse Conte abbia paura che si crei un ambiente generale, insomma, che spinge un po' la Roma, che ha interesse, ha voglia di vedere questo scudetto comunque aperto, la Juventus antipatica perché vince, l'ha detto Pier? Ma insomma, l'equilibrio è sempre un valore, no? Cioè il campionato incerto fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata per gli osservatori neutrali, per tutti quelli che seguono il calcio, ovviamente, a parte i diretti interessati, è un'ottima notizia. Non mi sembra che ci siano i margini. Non mi sembra che ci siano i margini, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Paolo Liguori, cioè la Roma sta vincendo campionato e Champions League. Se tu parti dal punto di partenza di questa stagione, dai disastri dell'anno scorso, dalla finale di Coppa Italia persa, dalle cessioni comunque di giocatori importanti come la Nera, Marquinhos e Osvaldo, da un allenatore che era un perfetto sconosciuto, diciamolo apertamente, ed era la terza scelta dopo Allegri e Mazzarri, beh, insomma, quello che è successo è qualcosa che ha dell'incredibile. Poi è ovvio che Garcia ci deve credere, certo che ci deve credere, perché se tu la mattina ti vai ad allenare, sei così forte e hai ancora comunque delle partite davanti, un obiettivo, ormai il secondo posto è praticamente conquistato, un obiettivo ce lo devi avere, e quindi Garcia fa benissimo a creare questo tipo di mentalità. Ma insomma, che ci siano dei margini mi sembra veramente incredibile. Se domani la Juve vince a Udine, vai a più 8 e certifichiamo la vittoria. Sì, domani è finita se la Juve vince a Udine. Ma pure se pareggia. Io volevo chiedere a Liguori se si aspetta un Udinese morbida o combattiva, visto che anche questo tema è stato toccato. Io mi aspetto un Udinese combattiva. L'Udinese vuole vincere questa partita perché l'Udinese ha un suo problema. Il suo campionato manca di qualche risultato clamoroso come quelli che tutti gli anni ha dato ai suoi tifosi, ha un ambiente un po' in fermento sulle questioni di Guidolin. L'Udinese cerca sicuramente una vittoria, ma pure una vittoria con la Juve a meno 5 non cambia le carte in tavola. Poi c'è un calendario. Sì, però gli scudetti, adesso proviamo a rimettere a posto il collegamento telefonico, però giustamente gli scudetti si perdono anche, anzi soprattutto si perdono con avversari sulla carta facili, quindi sono maliziosi quelli che fanno il discorso sui rapporti tra Juve e Udinese. Oggi tra l'altro si è anche scritto la Juve va a Udine per prendersi 3 punti e per prendersi metà del cartellino di Cuadrado, perché poi ci sono intrecci di mercato, ci sono tante vicende. Liguori, anche Benatia ha venduto l'anno scorso, mi risulta che i rapporti siano eccellenti anche con la anche Roma. Con la Roma. Questi discorsi qui non li voglio neanche immaginare, non li voglio neanche pensare. Io penso che ci sia un margine, che è un margine stralassicurante, e che semmai l'accelerazione clamorosa della Roma in queste ultime 7 partite ci ha portato a dire che quelle famose vittorie contro il Genoa e contro il Catania, e anche col Parma, di una Juve non brillantissima, che sembravano partite già amichevoli, devo dire la verità, insomma sembravano già partite a campionato conquistato, ecco, forse col senno di poi quelle vittorie lì invece saranno proprio le vittorie dello scudetto, perché sono le vittorie che oggi tengono una distanza così importante. Se la Juve avesse perso, diciamo, anche 4 punti in quelle 3 partite, quella col Genoa dove ha rischiato tantissimo, quella col Parma dove comunque non ha brillato, e quella di Catania che non è stata eccezionale, adesso forse il discorso sarebbe diverso, ma con questi numeri e questo calendario mi sembra onestamente che ci siano veramente poche possibilità. Poi mai dire mai. Sì, cioè, hai citato partite particolari, Pier, quelle anche in cui c'è stato qualche episodio. Ti faccio sentire, anche il derby col Torino, ad esempio, è in quella striscia di 3-4 partite. Io non so cosa ne pensa il direttore Liguori. Oggi a proposito degli arbitri è stata fatta la domanda a Conte, sentitela. Che cosa rispondi a chi è che insinua o pensa o dice che la differenza fra Juve e Roma sia stata fatta dagli arbitri? Guarda, non mi piace la domanda e quindi non ti do le risposte, ecco. Liguori. Non risponde Conte perché volete far rispondere me. Io perché, vi do dei tu dati. Tu non sei l'allenatore della Juventus. Non sono allenatore di niente, però per me la differenza sono state, è chiaro che c'è stata una differenza di punteggio. Poi io parlo dei due tecnici più forti del campionato, li metterei alla pari, perché partire come Conte da 2 scudetti o partire come Garcia dalle macerie della Coppa Italia non è la stessa cosa. Quindi secondo me Garcia ha fatto un campionato a pari, assolutamente pari a quello di Conte. Sono 2 bravissimi tecnici, per le loro squadre le hanno motivate. Io però vi voglio dare dei numeri, perché sennò poi sì, va sugli episodi e non si capisce. Io vi dico solo questo, perché avete detto prima forse c'è un clima che può vedere nella Roma una cosa nuova, spinge un po' la Roma. Allora la Roma quest'anno, che ha giocato benissimo, ha queste cifre che non vengono mai citate: è 17esima su 20 squadre per il numero di falli fatti, quindi è una delle 3 società che fa meno falli, è 6ª per numero di espulsioni, di cartellini gialli, ed è 1ª per il numero di squalifiche. Adesso poi voi fatelo voi il ragionamento, che siete tutta gente di calcio, vuol dire che la Roma fa pochi falli, ma quei pochi falli vengono sanzionati col giallo, che le squalifiche sono molto spesso la somma dei gialli dati a gente già diffidata, che era diffidata per un cumulo di gialli che non corrisponde, quindi, al cumulo dei falli. In qualche modo ha avuto un peso la vicenda arbitrale. Siccome queste cifre sono oggettive, non risponda Conte o non risponda nessuno, ma la squadra viene crocifissa, così come è stato per le squalifiche dell'Olimpico, che sono incomparabili con quelle di qualsiasi altro stadio, e col caso destro, che segna un punto assolutamente originale ed eccezionale, non lo dico io, lo scrive Sconcerti e lo scrivono tutti quanti, lo scrive anche il Crosetti, che è corrispondente da Torino di Repubblica. Insomma, è stata usata per la prima volta la moviola in campo e solo per un giocatore della Roma. Allora, se questo pensate che sia un clima favorevole alla Roma, beh, fate voi i conti. La messa piano, Pier, intanto lo salutiamo, grazie direttore. Ciao Paolo, ma no, sulla vicenda destro sono perfettamente d'accordo. Io credo che, appunto, prescindendo dai discorsi di questa maglia, di questo giocatore, eccetera, o piuttosto che di un'altra squadra, ma insomma qui siamo di fronte a sì, una... In realtà esisteva, un precedente è stato scovato da un collega della stampa, quindi non è la prima volta che è stato giudicato un episodio già giudicato in campo dall'arbitro, ecco, e poi passato per la prova TV. No, questo per completezza sì, di informazione, sì, però voglio dire, se non è piaciuto stampa... nemmeno a me, però esiste un precedente, quindi non è stato creato soltanto per Destro e per il giocatore della Roma. Io, a differenza di Paolo, non credo alla dietrologia, proprio non ci credo, però è un dato di fatto che la vicenda Destro, adesso vedremo il ricorso, è una vicenda assurda, assurda perché sicuramente c'è un gesto violento da parte del giocatore, ma è altrettanto evidente che quella situazione viene valutata male, ma viene valutata dall'arbitro. Quindi il clamoroso dietrofront del giorno dopo è veramente un esempio di moviola differita che apre scenari di ogni tipo, perché a questo punto su qualsiasi situazione di gioco si potrebbe chiedere al giudice sportivo il giorno dopo che ne pensa, no? Sì, ho l'impressione, condivido con Monica follia. Anche questa riflessione che a fine anno su tanti aspetti del regolamento, di come è stato applicato anche ad esempio per la questione delle curve, andrà fatta una profonda riflessione, perché quest'anno non è andata benissimo da questo punto di vista. No, diciamo che non c'è stata uniformità di giudizio, quindi credo che per quelli che sono stati i vari episodi di chiusura della curva o dei famosi cori sulla discriminazione territoriale, credo che serva un unicum a cui adeguarsi, e di conseguenza credo che a fine anno verrà fatto un reset. Sì, è mancata credo proprio l'uniformità di applicazione, sì. E questo poi può far aprire tanti discorsi. Ci fermiamo per un minuto, 800 24 00 24, c'è Sergio da Torino, poi ci chiedono di parlare di quello che è successo oggi a Liverpool e lo faremo, parleremo di quello, parleremo anche del Barcellona. Non so se avete visto, meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Tutti convocati. Intanto 25 minuti alla fine, Swansea-Chelsea 0-0, Liverpool ha battuto 3-2 il Manchester City, ma avremo modo di parlarne. Sta giocando anche il Benfica, 0-0 dopo mezz'ora con la Rucca. Umberto da Frosinone, Umberto, buonasera. Abbassi buonasera. La radio però, mi raccomando, prego. Sì. No, volevo sapere una cosa, no? Perché con la giornata di sport che c'è stata oggi, no? Sì. Tutte le partite, Firenze, si parla solo della Juventus. Non mi sembra, Umberto. Come non mi sembra? Abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato sì, di Cardi, abbiamo però parlato perché, del perché, Milan, perché della Roma. Tutta la pressione, perché aumentare la pressione della partita di domani sera tra l'Udinese e la Juventus? Non mi sembra regolare. Perché Conte dopo c'ha ragione quando dice che tutta, chi non sta con la Juventus è contro la Juventus. Ma questo basta andare in giro, è normale. Guarda, io dico, io c'ho un cugino carnale. Quello è milanista, proprio per essere milanista è anti-juventino. Allora? Quindi ce l'hanno tutti con la Juve. Intanto ha segnato il Chelsea, sì, abbiamo portato sì, bene il Chelsea. Però io volevo dire una cosa. Sì, dai, una piccola cosa. Prego. Ma la Roma col Cagliari, no? Ma lei non pensa che il Cagliari è stato danneggiato da... Sì, da certamente. Penso che Destro andasse espulso. Perché, penso sì. che c'era un rigore per la Roma, per il Cagliari, per il fallo di mano di Castan. Penso che ci sono milioni di episodi in un campionato, Umberto. Pier... Sì, è la conferma che sono tutti anti-juventini. No, credo che Umberto sia un tifoso normale, della Juventus, non gliel'ho chiesto. È abbastanza normale che si parli della prima in classifica, insomma, non... e anche della seconda, nel senso che poi la pressione che c'è oggi sulla Juve c'era ieri sulla Roma, nel senso che ieri il tema giornalistico di ieri è ce la farà la Roma a battere l'Atalanta? Il tema di oggi è ce la farà la Juventus a rispondere, a salire a 8 punti. Se volete parliamo della 12ª in classifica per mezz'ora, ma è abbastanza normale che si parli delle cose che sono in questo momento più calde, non c'è nessun complotto e nessuna valutazione. Sai chi ha segnato per il Chelsea? Dembaba. Che è l'uomo del destino, l'uomo del destino di Mourinho. Sergio da Torino, Sergio. Buonasera, prego. Ma sentivo prima che si parlava della pressione sulla Juve, delle altre squadre che si giocano la partita della vita. Io ho visto tutte le partite, sia della Juve che della Roma, nel girone di ritorno, e ho notato che è vero che le squadre che affrontano la Juve fanno la partita della vita, mentre quelle che giocano con la Roma mi sembra che tirino un po' dietro la gamba. cioè c'è qualcosa che non riesco a capire. Pier, c'è anche chi scrive al 349-238-6666, non parliamo del fatto che ieri l'Atalanta non si sia impegnata alla morte, guai a parlarne, per non urtare la sensibilità dei romanisti. Sì, ieri l'Atalanta non ha fatto una gran prestazione, però anche qui secondo me valgono le motivazioni. Io non so, io siete bravi, siete molto bravi se riuscite a capire se per esempio ieri l'Atalanta non ha fatto prestazione perché non l'ha voluta fare, non l'ha potuta fare, o se non l'ha fatta perché la Roma è stata molto superiore. Questo vale anche al contrario, cioè vale anche per le altre squadre, vale anche nel caso della Juve. In maniera assolutamente speculare, io non ci credo a questa cosa. Siamo a fine stagione, io credo che le motivazioni, ma io credo ad esempio che anche al Milan si stiano facendo due conti guardando il calendario, ad esempio il fatto che il Catania abbia perso le ultime partite può aver fatto pensare che magari questa sera sarà meno complicata a Monaco di quanto poteva essere, ma questo è fisiologico, vale per la Juve, per la Roma, per il Catania, per il Milan questa sera. No, ma infatti è ovvio che in questo momento per il Milan la partita col Catania di questa sera sia sulla carta abbordabile, come peraltro quella del prossimo sabato di Pasqua con il Livorno, cioè sulla carta sembrano sei punti, come dire, raggiungibili senza troppa fatica. Se tu pensi alla partita che ha fatto il Catania con la Juve, ma era un momento storico diverso, alle volte anche due o tre settimane fanno la differenza, certo, fanno motivazione di una squadra. Andiamo un po' fuori dall'Italia, Pier. No, volevo capire, soprattutto la Monica, secondo lei, che è esperta di cose di Milanello, quanto ci credono e quanto vogliono l'Europa League? Ci credono. Ma io credo che all'inizio della sua avventura milanista Seedorf non è che ci credesse molto, e soprattutto non è che nemmeno lo volesse molto, perché è inutile nasconderci, l'Europa League comunque compromette la preparazione e anche nell'arco di una stagione rende troppo brevi i periodi di recupero in vista del campionato. Detto questo, dopo l'eliminazione ad opera dell'Atletico Madrid, visto che la società ha posto in maniera netta e chiara come obiettivo l'Europa League, anche il Panterone si è dovuto adeguare, quindi adesso in maniera esplicita nelle dichiarazioni viene indicata l'Europa League come traguardo da raggiungere. Sì, è stato normalizzato anche il Panterone, altro che raccolta dati, per riprendere una battuta di Mazzarri dopo il pareggio, battuta infausta di Mazzarri dopo il pareggio di Livorno. Parliamo di altro, però dai, oggi c'è stato uno spettacolo meraviglioso ad Anfield Road a Liverpool. Saluto Paolo Condò, ciao Paolo. Buongiorno a tutti, buona domenica. Lo facciamo sentire a quei pochi sfortunati che non l'hanno potuto, non dico vivere di persona, ma anche solo vedere in televisione oggi Liverpool. Erano i 25 anni della tragedia di Isbro, stati celebrati, tra l'altro c'era una partita di grandissima importanza che Liverpool ha vinto 3-2 col Manchester City, Liverpool che è primo in classifica. È stata una grande emozione, un grande pomeriggio di calcio. Paolo, io so che hai seguito su Twitter, t'ho seguito. Naturalmente è stata una di quelle occasioni nelle quali si va molto oltre l'aspetto tecnico di una partita, perché è chiaro che il Liverpool che non vince da mille anni la Premier e che nella giornata in cui scoccano i 25 anni di una tragedia terribile loro, del calcio inglese e di tutto il calcio mondiale, e loro vincono quella che potrebbe essere la partita decisiva, perché adesso hanno un vantaggio chiaro, e se non sbagliano più un colpo vinceranno il campionato. Insomma, è una cosa da brividi, è stata una cosa da brividi oggi. Lo facciamo sentire, questo è You'll Never Walk Alone di oggi. Oh. Ha segnato Coutinho, tra l'altro. Pensa che storia, Pier, l'Atletico Madrid che hai, a questo punto ha il suo destino in mano, il Liverpool che ha il suo destino in mano. Noi parliamo tanto di fatturati, poi potrebbe uscire una stagione in cui in Spagna ed Inghilterra, cioè nei due tornei più ricchi, vincono due outsider, perché questo sono Atletico Madrid e Liverpool, Pier. Sì, incredibile, bellissimo, molto romantico. È stata una settimana di storie romantiche, quella dell'Atletico Madrid dell'altra sera, insomma io ero a Calderon e quindi chiaramente la sento profondamente, perché è una di quelle partite che ti segna poi alla fine della stagione, una di quelle partite che ti ricordi, e quella di oggi non è Rodanfield ma è assolutamente nella stessa direzione. Nel 19 c'è Getafe, Atletico Madrid potrebbe essere veramente l'anno delle outsider, ed è sempre più difficile che avvengano cose di questo tipo, perché la distanza proprio di fatturati fra per esempio Real Madrid e Barcellona rispetto a tutte le altre, dove ovviamente l'Atletico Madrid è la terza, ma la terza staccata, impedisce soprattutto su una competizione lunga da 38 giornate di poter competere, e quindi insomma sarebbero due clamorose storie molto letterarie, molto sorprendenti. Paolo, cos'hanno Liverpool e Atletico Madrid quest'anno? Ma guarda, in realtà sono due storie profondamente diverse. Quella del Liverpool a mio parere assomiglia molto a quella della Roma, e cioè una squadra che ha dei grandissimi campioni nelle proprie file e che non giocando le coppe ha potuto dedicare interamente tutte le sue energie anche mentali alla costruzione di questo grande campionato. Sono due storie molto simili. Se tu vai a vedere nel Liverpool dal vecchio Gerrard, che ha ancora molte cose da dire, a Suarez, che è un campione di proporzioni ma più che assolute, secondo me è la quarta lancia degli attacchi mondiali assieme a Messi, Ronaldo e Ibrahimovic. Sì, che non è una buona notizia per noi italiani, visto che ce lo troveremo di fronte nel girone dei mondiali. Credo si sottovaluti la difficoltà di quel girone, Inghilterra, Speriamo Uruguay. Di essere entrambe già qualificate ai danni ovviamente dell'Inghilterra nell'ultima partita. Sì, noi ho l'impressione che ci giochiamo, se non tutto, molto direttamente nei primi 90 minuti con l'Inghilterra. Sì, anche secondo me la partita avremo capito abbastanza in fretta qual è il nostro destino nel mondiale. Il nostro destino è quella. Comunque ti dicevo, quella del Liverpool mi ricorda molto anche tecnicamente la storia della Roma. Quella dell'Atletico Madrid è una storia soprannaturale, dove non c'entrano, sono successe talmente tante cose incredibili. Ecco che è un annato, dopodiché possiamo e dobbiamo trarne tutte le lezioni che è giusto trarre. Appunto, il fatturato dell'Atletico Madrid 120 milioni. Allora non è indispensabile essere dei ultra miliardari per costruire delle grandi squadre. Però ripeto, sono successe talmente tante cose incredibili all'Atletico Madrid, c'è talmente tutto è andato, ogni tassello è finito nel posto giusto, e la storia non è finita, ma già così storia meravigliosa. Io certo. Sorrido e guardo Monica Colombo quando penso a quelli che, pescando l'Atletico Madrid, hanno detto: beh, in fondo al Milan non è andata male. No, esatto, ci è andata meglio di quanto pensassimo. Così, quello era stato in effetti un po' l'orientamento comune al momento del sorteggio. Beh, detto questo, dopo aver visto anche la partita di questa settimana, credo che anche l'eliminazione che c'è stata agli ottavi di finale ha assunto un peso, un valore diverso. Vero è che il Barcellona comunque è già da più di un anno che è in fase calante, però insomma l'Atletico Madrid ha dimostrato di rispecchiare in tutto per tutto il carattere del suo allenatore, e ora insomma racconterà di questa semifinale. E ora ha il destino nelle sue mani, almeno per quanto riguarda la Liga. Traffico, state lì, perché poi vi faccio sentire cos'è successo questa mattina. Erano circa le 3 a Barcellona, fuori dal Camp Nou. Traffico. Tutti convocati. Venir aquí a hablar, hombre, dar la cara, dar la cara. Ahora cuando la gente vaya a Valencia y hace esfuerzo económico, para ir a Lico, termine el partido, lo vengan a salvar. Venir para aquí, tres capitales, hombre. Alves, ven a hablar aquí. Barcellona. c'è l'ora questa mattina, credo fossero le 3:30, parlano in spagnolo, ma mi sembra tutto abbastanza comprensibile. Sono i tifosi che hanno atteso il ritorno dei giocatori del Barcellona da Granada dopo l'1-0 che ieri sera ha, credo, compromesso la corsa del Barcellona nella Liga. Pier, succede anche altrove, mi sembra che possiamo consolarci da questo punto di vista, un po' meno il Barcellona che si sta suicidando in questo finale di stagione in maniera anche incomprensibile, ma poi lo chiederemo a Paolo Condò, che secondo me aveva visto tutto già a settembre-ottobre, ce l'aveva raccontato. Pier? È tutto come sempre molto liquido, molto mutevole. Un anno fa non avremmo pensato a Icardi che faceva quel gesto sotto la gradinata sud dei tifosi della Sampdoria. Oggi è successo, per tutta una serie di gesta erotiche e sentimentali nel merito del quale non mi sembra il caso di rientrare, e allo stesso modo può capitare che quella che è stata la squadra dominatrice negli ultimi anni possa comunque ricevere in questo momento delle critiche, anche delle critiche giuste poi nello specifico, perché è evidente insomma che il Barça teoricamente dovrebbe essere davanti quantomeno all'Atletico Madrid, poi il Barcellona ne possiamo parlare, ed è evidente insomma che stia sottoperformando, come dicono quelli bravi. No? Paolo Condò aveva capito tutto ottobre, io lo ricordo, aveva detto: attenzione, Barcellona non è quell'isola felice in questa stagione che ci siamo abituati a conoscere. Avevi perfettamente ragione, però aiutaci a capire perché una dissoluzione simile, io sinceramente facevo fatica anche a pensarla possibile. Allora, premesso che dei tifosi che vanno a contestare dei giocatori che in questi anni hanno portato così tante gioie, così tanti successi, sono dei disadattati e non riesco a trovare altre parole. Premesso questo, il Barcellona secondo me è finito, un certo Barcellona, la squadra più forte di sempre, è finita con l'addio di Guardiola. Guardiola va via perché capisce che l'intensità, è una storia simile a quella di Sacchi al Milan, capisce che l'intensità non è più ricreabile, non è più gestibile quel tipo di disponibilità, di umiltà di grandissimi campioni al servizio della squadra. Però mentre il Milan dopo Sacchi arriva a Capello, che sia pure con un gioco che non passa alla storia come quello di Sacchi, vince tantissimo con quei giocatori, con i giocatori nuovi, quello che non è riuscito a fare il Barcellona è stato sostituire, cioè stanno continuando a cercare un tipo di allenatore che possa replicare quel tipo di gioco, ma secondo me cosa è evidentemente impossibile. È impossibile perché senza quella disponibilità mentale dei giocatori, che non può esserci più, non c'è più, ecco, adesso allora avrebbero bisogno, io l'ho detto, il paradosso, avrebbero bisogno di Mourinho. Con Mourinho rivincerebbero, cioè, esattamente tantissimo. Il contrario, qualcuno capace di dare uno stimolo diverso, qualcosa di più speculativo, ti chiedo una risposta flash, Paolo, perché poi siamo vicini alla chiusura, parliamo anche di MotoGP. Il Tata Martino, al di là della penale o meno, se esiste, di 5 milioni per uscire dal contratto adesso e non alla fine della prossima stagione, oggi tanti giornali scrivevano in Catalogna: adios Martino, adios Barça, resta o va? Io penso che andrà. Parentesi chiusa. Cioè, si è giocato le sue carte, i risultati mancano. Non per colpa sua. La riforma era impossibile, ci voleva una rivoluzione evidentemente in quella squadra. Grazie Paolo. Ciao a tutti. Grazie a Paolo Condò. Pier, anche tu hai idea che dall'anno prossimo il Barcellona riscriverà da zero un copione nuovo? Sì, il Barcellona ha cercato in questi anni di costruire delle figure di allenatori deboli nel senso che si è fidata della qualità eccezionale di una macchina completamente rodata. Villanova ovviamente aveva altri problemi, altre storie ben più importanti a cui pensare, e comunque una debilitazione fisica che non lo ha aiutato. Martino evidentemente non è bravo abbastanza, insomma. E poi c'è anche un discorso comunque di logorio di una squadra che ha vinto tanto, che magari un po' di pancia piena ce l'ha, che ha alcuni giocatori meravigliosi come Iniesta e Xavi, che probabilmente non hanno più la stessa energia che avevano qualche anno fa. Insomma, sì, anche intorno a Messi forse va fatto un discorso. Oggi i siti spagnoli scrivono Messing, che secondo me è la sintesi perfetta di quello che sta dando Messi, al di là del numero dei gol in questa fase della stagione, anche ieri la sua una prestazione ampiamente insufficiente. Con l'Atletico Madrid, abbiamo detto, ha praticamente scioperato. Credo che il Barcellona ripartirà anche dalla messa in discussione del suo numero 10, non tanto a livello contrattuale, perché sta per rinnovare su cifre che sono assolutamente fuori mercato, ma forse per il suo ruolo all'interno del Barcellona. Pier, ti saluto, ti do l'appuntamento. Ciao, domani ragazzi, dalle 14 ciao, alle 16. Chiudiamo con la MotoGP. Roberto Ungaro, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Perché è una serata questa di MotoGP. Ti faccio sentire Valentino Rossi dopo le prove di ieri. Valentino Rossi è abbastanza deluso e deludente, eh? Secondo me sesto posto, però ci aiuti tu a capire dopo che cosa dobbiamo attenderci questa sera alle 21. Valentino. Soprattutto per la qualifica siamo riusciti a migliorare ancora un po' e ho guidato bene, secondo me ho fatto una buona qualifica, mi sento bene con la moto e sono sesto, e che non è male, la seconda fila per la gara. Ha fatto bene, 471 millesimi, però davanti, Roberto, c'è un extraterrestre. Gli hanno cambiato le regole, ma non è cambiato nulla. No, c'è una persona che fa un altro sport, si chiama Marquez, lo abbiamo visto come guida. Il fatto è che Austin è un circuito che sembra esaltare il suo stile di guida, quindi lì fa davvero la differenza, un secondo è una roba incredibile, e il warm up che si è appena stato, che sono gli ultimi 20 minuti a disposizione, ha riconfermato il suo strapotere, ha persino provato un cambio veloce al box perché il tempo è più nuvoloso, la temperatura è più fresca rispetto a ieri, non dovrebbe piovere, però in caso di minaccia lui ha provato a fare il cambio veloce nel caso di gara flag to flag. Alle sue spalle attenzione perché c'è Dani Pedrosa, potrebbe essere la sorpresa di questa sera, guida molto bene, è a 3 decimi nel warm up e sembra l'unico in grado di riuscire a perlomeno vederlo, perché il problema è che lui farà la lepre a questo punto. Sì, quindi tradotto significa che ci sono le Honda e poi ci sono basta tutte le altre a partire dalla Yamaha. Bradl, che è la prima Honda satellite, è terza. C'è Valentino che ha migliorato una posizione perché è riuscito a fare quinto e però ha un secondo, 0,927. E poi c'è Paul Espargaró, che anche lui con la Yamaha, che è a soli 4 millesimi dal dottore, pensate. Però Honda è stratosferica, questa è una pista stop and go, grandi staccate violente, si spigola e si accelera violentemente, quindi lì la Honda è imbattibile. Bridgestone ha accontentato Jorge Lorenzo portandogli le gomme 2013, lui si trova meglio, però non è bastato assolutamente. Poche speranze di rivedere lo spettacolo del Qatar, mi pare di capire. Purtroppo no, temo che non sarà così, vedremo Marquez che se ne va, dietro vediamo Pedrosa e Bradley Smith, c'è da capire cosa fanno, e poi le Yamaha, secondo me sarà una bella battaglia tra Lorenzo e Valentino, ma se Lorenzo va a podio c'ha da leccarsi i gomiti questa gara. Ho letto da qualche parte, Marquez oggi fa la lepre, vince il mondiale chiuso dopo 2 gare, mi sembra un po' prematuro, anche se il dominio della Honda assomiglia molto a quello della Mercedes, provando a fare un parallelo con la Formula 1. Sì, è troppo presto, 2 gare dall'inizio non si può dire già, certo che vederlo guidare così. Ieri quando ha provato la staccata dopo il rettilineo veloce è stato uno spettacolo, perché ha provato per 2 volte, è arrivato lungo, ma stava provando, esasperava per poi fare il tempo. Il terzo giro quando è entrato, ragazzi, ci ha regalato un numero con la moto alzata dietro di 50 centimetri e poi l'ha inserita. Quando vedi fare uno così vuol dire che gioca, è il prolungamento del suo corpo la moto. Sì, vuol dire che è un fenomeno, guida la moto migliore, ma lui è già il migliore, è già un valore aggiunto, non vince per la moto, discorso che spesso abbiamo allargato anche a tanti altri. Grazie Roberto Ungaro. Un saluto a voi, grazie. Alle 21 non perdiamoci lo spettacolo. Alle 21 da Austin in Texas, la seconda prova della MotoGP. Intanto Chelsea che ha rischiato tantissimo all'89esimo contro lo Swansea. Chelsea però che vince 1-0. Siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Monica Colombo che mando a San Siro a vedere il Milan. Dammi grazie. Il pronostico. Veloce. Ma in teoria credo che il Milan possa vincere. Ma non so, io vedo una vittoria del Milan 2-0. Io dico che terremo vivo questo derby che poi fra 3 giornate ci porta al derby vero e proprio che varrà per l'Europa League. Ci fermiamo qui, ringrazio Franco Peantanida, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Pietro Lacorte che si sono alternati in regia dietro il vetro. Domenica prossima è Pasqua, tutti convocati il weekend, si prende un turno di riposo, quindi ci sentiamo fra 15 giorni. Domani però ore 14 per le solite 2 ore, tutti convocati Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti. Arrivederci e grazie, baci e pace bene a tutti.